tramortito di paura e paralizzato. E il pubblico lo sta aspettando. E intanto lui dietro le quinte continua a bere. E al momento di andare in scena è tutto rigido e impalato. Ah.